Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. L'idroelettrico è la fonte rinnovabile di gran lunga più utilizzata, più sviluppata in Italia e nel mondo. In Italia è responsabile di circa il 15% della produzione elettrica nazionale, anche se questa cifra, insomma, qualche volta sembra salire, qualche volta scendere. Ma rinnovabile comunque non è sinonimo, questo lo sappiamo bene, di ambientalmente innocuo, tantomeno se parliamo di opere che comportano forti modifiche del corso dei fiumi, l'allagamento magari in intere valli con grandi dighe o comunque anche solo l'interruzione del naturale flusso idrico di un fiume. Ecco allora che si pone il problema di coniugare queste due istanze, quella diciamo energetica e quella ambientale, o quantomeno di avere degli strumenti per distinguere caso per caso, se così vogliamo dire, il grano dalla gramigna. E proprio a tal fine nasce CHOIS, si scrive CH2OIS, H2O insomma, sapete, è la formula dell'acqua, è una nuova etichetta lanciata settimana scorsa che dovrebbe appunto rispondere a questa esigenza. Ne parliamo con Giulio Conte, che è socio ricercatore di Ambiente Italia e coordinatore del progetto CHOIS. Buonasera Conte. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Va bene, io direi, insomma, a lei la parola, cerchiamo di spiegare un po' meglio intanto i termini del problema e poi a che cosa serve, insomma, questa certificazione. Sì, l'idea è nata da un gruppo di soggetti di cui Ambiente Italia è solo il coordinatore, ma ci sono il WWF Italia, c'è l'APER, l'Associazione per le Energie Rinnovabili, c'è l'Associazione dei Produttori Idroelettrici Europea, c'è l'Istituto di Ricerca sulle Acque Sloveno e diversi altri partner. Sostanzialmente valutando che la direttiva quadro sulle acque che è stata approvata nel 2000 va un po' in conflitto con la direttiva sulle rinnovabili, perché mentre la direttiva sulle rinnovabili ci chiede di produrre sempre più energia rinnovabile, tra cui l'idroelettrico, quella sulle acque ci chiede di raggiungere degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, in particolare dei fiumi, che in diversi casi possono essere raggiunti solo se lasciamo più acqua nei fiumi e se li riportiamo verso condizioni più naturali. Più simili all'originale. Ecco, quali sono tipicamente, come dire, i problemi che l'introduzione di una diga, di uno sbarramento può generare sul fiume, sul anche vita degli abitanti del fiume? Ma in genere la cosa che tutti ormai conoscono è il tema del deflusso vitale, cioè il fatto che una certa quantità d'acqua va lasciata nel fiume per permettergli di mantenere in condizioni vitali l'ecosistema. L'ecosistema, certo. E l'altro aspetto importante è che lo sbarramento divide il fiume in due metà, una a monte e una a valle, e questo ha un impatto sia sulle comunità dei pesci, per esempio, perché magari non riescono ad attraversare questa barriera. Un altro importante impatto riguarda il ciclo dei sedimenti, perché i fiumi sono dei grandi nastri trasportatori che portano i sedimenti da monte verso valle. Mettergli una barriera in mezzo interrompe questo importante flusso, e questo è uno dei motivi, per esempio, per cui i nostri fiumi spesso hanno alvei più bassi di quanto dovrebbero avere. Perché questi sedimenti non arrivano al mare fondamentalmente, piano si accumulano. Diciamo, si fermano a monte della diga, non arrivano né alle spiagge, che quindi vengono erose, certo, ma neanche nel tratto di fiume che sta a valle della diga, e questo è il motivo per cui, per esempio, l'ultimo tratto del Po oggi risulta più basso di circa 3 metri rispetto alla sua quota naturale. Qual è il vantaggio a dotarsi di questa certificazione? Mettere giusto una bandierina, insomma, sulla diga, o c'è qualche vantaggio concreto, diciamo, per gli operatori? Dunque, il vantaggio per l'operatore è innanzitutto un possibile vantaggio di marketing, perché se ha il suo impianto certificato può andare sul mercato con un nuovo marchio, diciamo, di alta qualità del 100% energia verde, cioè ci sarà un 100% energia verde gold che sarà rivolto ai consumatori ambientalmente più esigenti e disponibili anche a pagare di più. Ecco, è noto che proprio questa direttiva acque rende comunque molto complicato l'iter autorizzativo per la realizzazione di impianti idroelettrici grandi, anche se questi ormai insomma sono stati realizzati dove si poteva farli, ma soprattutto quelli piccoli. Addirittura l'iter burocratico insomma richiede degli anni, mentre poi magari i lavori di costruzione dell'impianto si realizzano in pochi mesi. Allora la domanda è se questa certificazione in prospettiva può essere un modo di rendere più semplice tutto questo iter burocratico. Ma secondo noi sicuramente sì, cioè quello che avverrà sarà che mano a mano che l'etichetta acquisirà visibilità sul mercato e credibilità, gli enti pubblici riconosceranno che gli impianti certificati sono effettivamente ecosostenibili e questo dovrebbe accelerare moltissimo tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Il costo della procedura per accedere, insomma, per avere questa certificazione è molto elevato? Il costo è dell'ordine di qualche migliaio di euro per la certificazione, quello che costa è invece l'analisi ambientale che va fatta per ottenerla, che può andare tra i 10 e i 100 mila euro a seconda delle dimensioni, delle caratteristiche dell'impianto e dei dati esistenti. Visto che l'idroelettrico, come dire, non è l'unica fonte sulla quale poi ci sono contestazioni legate alla compatibilità ambientale, eccetera, eccetera, è pensabile estendere questo tipo di modello ad altre realtà, ad altre fonti? Sicuramente sì, stiamo già pensando con un'organizzazione finlandese qualcosa di analogo per l'eolico e per le biomasse. Grazie Giulio Conte. Prego, grazie a voi. Bene, per questa sera è tutto, domani torniamo sul decreto legislativo che tanto sta facendo discutere soprattutto gli operatori del fotovoltaico. Buona serata.